con un corpo da modella, prepotente fantasia. Alta, bella, bionda, con gli occhi blu, profondi quanto il cielo e il mare, dimmi cosa vuoi di più. Più eccitante di un video hard, più sexy del calendario di Max. Sa tutte le posizioni possibili, sì, il Kama Sutra e il suo ABC. Lei ha un figlio un po' tonto che gioca alla play tutto il giorno, ma la notte non basta, la sua donna non è mai sazia. Lui è il mio compagno di banco. In culo hai preso la maturità, hai parcheggiato poi le chiappe in facoltà di economia. Ascolta, è tempo perso l'università, io sono stra più che sicuro qual è la tua retta via. Se giri un film stile Tinto Brass e matematico sfonderai, il tuo impresario io diventerò, credi in me, tanti soldi tu guadagnerai. Amico, non essere sciocco, tu sei l'erede di Rocco, l'occasione è importante, il tuo pisello è gigante. Vai, hai un futuro nel porno, girerai film tutto il giorno, c'è qualcosa di grande sotto le tue mutande. Soldi nel calcio, scommesse, sul lavoro prenderai l'AIDS e così morirai da pezzente, ma noi due resteremo amici per sempre.